Siete una razza ingrata perché avete lasciato solo l'unico superstite dopo la mattanza, l'ultimo degli arditi, l'ultimo degli eroi. Siete una razza ingrata, siete sordi alla nazione, siete ipocriti e criminali, siete la devastazione. Siete una razza ingrata, perché i veri mandanti siete voi, ma sulle vostre teste non c'è nessuna taglia e vi concedono rispetto, onore e votazione. Voi che manovrate e che vi riciclate, voi che occultate e vi ripresentate, voi che non avete nessuna dignità, che non avete onore, morale e serietà. Parlate ed ingannate, tassate e dissanguate, passate il vostro tempo in inutili riunioni, in squalli di congressi, salotti e commissioni, magagne di partito, intrighi e compromessi. Ingrata, perché i veri colpevoli siete voi, voi gli assassini, voi occulti, voi le convergenze, il cancro dell'Italia. Nessuna dignità.